D'altronde, la mia curiosità storica risultava addirittura debole in confronto al mio piacere estetico. I nomi citati producevano l'effetto di disincarnare gli invitati della duchessa, si chiamassero anche principe di Agrigento o di Cistria, che le rispettive maschere di carne di inintelligenza o di intelligenza banali avevano mutati in uomini qualsiasi, così che lo zerbino dell'anticamera era stato per me non già, come avevo creduto, la soglia, bensì l'estremo limite del mondo incantato dei nomi. Persino il principe d'Agrigento, non appena sentì che sua madre era una dama, nipote del duca di Modena, fu liberato come da un elemento di un composto chimico instabile, dalla faccia e dalle parole che impedivano di riconoscerlo, e venne a formare con Damà e Modena, semplici titoli questi, una combinazione di gran lunga più seducente. Ogni nome, spostato dalla forza d'attrazione d'un altro col quale non gli avrei mai attribuito alcuna affinità, abbandonava l'immutabile posizione che occupava nel mio cervello, dove l'abitudine l'aveva scolorito, e andando a raggiungere i Mortemart, gli Stuart o i Borboni, disegnava con loro rameggi dalla forma più attraente e dalla colorazione cangiante. Lo stesso nome Germant riceveva dai bei nomi spenti e proprio per questo più ardentemente riaccesi, cui avevo appena appreso che esso era legato, una nuova determinazione puramente poetica. All'estremità di ogni protuberanza del fusto altero, la vedevo sbocciare nei volti di qualche saggio re o di qualche illustre principessa, come il padre di Enrico IV o la duchessa di Longueville. Ma poiché tali fisionomie, diversamente da quelle dei commensali, non erano macchiate per me da nessuna residua impurità d'esperienza materiale e di mediocrità mondana, esse restavano, nel loro bel disegno e nei loro cangianti riflessi, omogenee ai nomi che, a intervalli regolari, ciascuno di un diverso colore, si staccavano dall'albero genealogico di Germant e non turbavano con nessuna materia estranea e opaca i germogli traslucidi, alterni e multicolori che, come nelle antiche vetrate di Yes, gli antenati di Gesù, fiorivano su entrambi i lati dell'albero di vetro. Avevo già fatto più di un tentativo di congedarmi, a causa più che altro della mediocrità imposta dalla mia presenza a quella riunione, che tuttavia era una di quelle di cui avevo così a lungo immaginato la bellezza e che bella sarebbe indubbiamente stata se non avessi avuto un testimone imbarazzante. Andandomene almeno, avrei consentito agli invitati di costituirsi finalmente, una volta liberatisi dalla presenza del profano, in comitato segreto. Avrebbero potuto celebrare i misteri per la cui celebrazione si erano riuniti, giacché non l'avevano fatto di sicuro per parlare di Franz Hals o dell'avarizia, e tantomeno per parlarne come ne avrebbero parlato dei semplici borghesi. Se si discuteva solo di minuzie, era evidentemente perché c'ero io, e provavo, vedendo tutte quelle belle donne separate, il rimorso di trattenerle, con la mia presenza, dal condurre, in questo che era il più prezioso dei suoi salotti, la vita misteriosa del Faubourg Saint-Germain. Ma quel commiato che io volevo prendere ad ogni istante, il duca e la duchessa di Germant spingevano il loro spirito di sacrificio sino a procrastinarlo, continuando a trattenermi. Cosa ancora più strana, parecchie delle dame accorse, estasiate, agghindate, costellate di pietre preziose, per assistere a una tipica festa del Faubourg Saint-Germain che per colpa mia non differiva, nella sostanza, da quelle che si danno anche altrove, più di quanto ci si senta Balbec in una città che non corrisponde a ciò che i nostri occhi sono abituati a vedere, parecchie di quelle dame si ritirarono, non già deluse come sarebbe stato giusto che fossero, bensì ringraziando con effusione Madame de Guermantes per la deliziosa serata, come se le altre volte, quando io non c'ero, non fosse successo nient'altro. Era realmente in funzione di simili pranzi che tutte quelle persone si cambiavano d'abito e impedivano alle borghesi di penetrare nei loro inaccessibili salotti? Per pranzi come quello? Uguali anche se io non ci fossi stato? Ne ebbi un fugace sospetto, ma era troppo assurdo. Il semplice buonsenso mi consentiva di rimuoverlo, e poi, se l'avessi nutrito, che cosa sarebbe rimasto del nome Guermantes, già così degradato rispetto ai tempi di Combré? Del resto, quelle fanciulle e fiore erano insolitamente facili da accontentare, o desiderose di accontentare, giacché più d'una la quale, in tutta la sera, avevo al massimo rivolto due o tre frasi la cui stupidità mi aveva fatto arrossire, prima di lasciare il salotto tenne ad esprimermi, posando su di me lo sguardo carezzevole dei suoi begli occhi e sistemando la composizione d'orchidee che le inghirlandava il seno, quale intenso piacere le fosse derivato dal conoscermi, parlandomi inoltre, velata allusione a un invito a pranzo, del suo desiderio di combinare qualcosa una volta che avesse fissato il giorno con Madame de Guermantes. Nessuna delle dame fiore si ritirò prima della principessa di Parma. La presenza della principessa, non si deve andar via prima di un'altezza, era una delle due ragioni, da me non intuite, per cui la duchessa mi aveva invitato con tanta insistenza a restare. Appena si levò in piedi Madame de Parme, fu come una liberazione. Tutte le signore, dopo essersi genuflesse davanti alla principessa che le fece rialzare, ricevettero da lei sotto forma di un bacio e come una benedizione che avessero implorata in ginocchio il permesso di chiedere il mantello e la carrozza. Risuonò così, dinanzi alla porta, una specie di litania gridata di grandi nomi della storia di Francia. La principessa di Parma aveva proibito a Madame de Guermantes di scendere ad accompagnarla sino al vestibolo per paura che prendesse freddo, e il duca aveva aggiunto: «Via, Oriane, poiché Madame lo consente, ricordatevi cosa vi ha detto il dottore. Credo che la principessa di Parma sia stata molto contenta di pranzare con voi». Conoscevo la formula. Il duca aveva attraversato tutto il salotto per venire a pronunciarla davanti a me, col tono complimentoso e compunto di chi vi consegni un diploma o vi offra dei pasticcini. E dal piacere che, in quel momento, visibilmente provava e che dava un'espressione momentaneamente così dolce al suo viso, dedussi che un tale genere di incombenze doveva essere per lui di quelli che avrebbe assolti sino agli ultimi giorni della sua vita, come certe funzioni onorifiche e agevoli che si mantengono anche quando si è rimbambiti. Mentre stavo per andarmene, la dama d'onore della principessa rientrò nel salotto, essendosi dimenticata di prendere i meravigliosi garofani fatti venire da Guermantes che la duchessa aveva offerti a Madame de Parme. La dama d'onore era alquanto rossa in viso. Si capiva che era stata sgridata, perché la principessa, così buona con tutti, di fronte alla scempiaggine della sua accompagnatrice non riusciva a reprimere la propria insofferenza. Così la poveretta corse via in gran fretta con i garofani in mano, ma per conservare un piglio disinvolto e sbarazzino, mentre mi passava davanti, buttò là: «La principessa si lamenta perché sono in ritardo. Vorrebbe che fossimo già per strada, ma con i garofani, per bacco, non sono mica un uccellino, non posso essere in più d'un posto alla volta». Ahimè, la ragione che non ci si deve alzare prima di un'altezza non era l'unica. Non poté andar via subito perché ce n'era un'altra, e cioè che il famoso lusso, ignoto ai Courvoisier, di cui Guermantes, opulenti o mezzo rovinati che fossero, eccellevano nel far godere i loro amici, non era solo un lusso materiale, ma anche, come avevo più volte sperimentato con Robert de Saint-Leu, un lusso fatto di parole squisite, di atti gentili, tutta un'eleganza verbale alimentata da una autentica ricchezza interiore. Ma poiché questa, nella sfaccendatezza mondana, resta disoccupata, si riversava a volte, cercava un diversivo in una sorta di fusione fuggevole e dunque tanto più ansiosa che avrebbe potuto far pensare, da parte di Madame de Guermantes, a una forma d'affetto. La provava, d'altronde, nel momento stesso in cui lasciava che straripasse, quando cioè traeva dalla compagnia dell'amico o dell'amica con cui si trovava ad essere una sorta d'ebbrezza, per nulla sensuale, analoga a quella che dà la musica a certe persone. Le capitava di staccare un fiore dal corpetto del suo abito, un medaglione, e di regalarli a qualcuno assieme al quale le sarebbe piaciuto proseguire la serata, pur sentendo con malinconia che un tale prolungamento sarebbe potuto approdare solo a vane chiacchiere che nulla avrebbero serbato di quel piacere nervoso, di quell'emozione passeggera, simili ai primi tepori di primavera per l'impressione che lasciano di sfinimento e di tristezza. Quanto all'amico, bisognava che non si facesse troppo ingannare dalle promesse, le più inebrianti che avesse mai udite, formulate da una di quelle donne che, capaci di sentire con tanta forza la dolcezza di un momento, ne fanno, con una delicatezza, una nobiltà ignota e alle creature normali, un commovente capolavoro di grazia e di bontà, e non hanno più niente da dare di se stesse non appena quel momento sia trascorso. Il loro affetto non sopravvive all'esaltazione che l'ho detta, e la finezza intellettuale che le aveva guidate allora a indovinare e a dirvi tutte le cose che desideravate ascoltare consentirà loro, non molti giorni dopo, di cogliere con altrettanta acutezza i vostri lati ridicoli e di offrirne materia di divertimento a un altro visitatore col quale staranno assaporando un altro di quei brevissimi momenti musicali. Nel vestibolo, dove chiesi ai lacchei i miei snow boots, che avevo presi per precauzione dato che era caduto qualche fiocco di neve, subito trasformatosi in fango, senza rendermi conto della loro scarsa eleganza, provai, nel vedere il sorriso sprezzante di tutti i domestici, una vergogna che toccò il suo vertice quando mi accorsi che Madame de Parme non era ancora uscita e stava lì a guardarmi mentre calzavo le mie sovrascarpe di gomma. La principessa tornò verso di me. «Oh, che bella idea!» esclamò. «Che cosa pratica! Ecco un uomo intelligente! Bisognerà, signora, che ne compriamo anche noi di simili!» aggiunse rivolgendosi alla sua dama d'onore, mentre l'ironia dei lacchè si mutava in rispetto e gli invitati mi si radunavano intorno per informarsi dove avessi trovato quelle meraviglie. «Così equipaggiato!» mi disse la principessa. Non avete più nulla da temere, nemmeno se riprendi a nevicare dovete fare molta strada, è come se non ci fossero più stagioni. Oh, quanto a questo, Vostra Altezza Reale può stare tranquilla, la interruppe la dama d'onore con una certa aria scaltra. Non nevicherà più. E voi, signora, come fate a saperlo? Replicò aspramente la mite principessa di Parma, che solo la stupidità della sua dama d'onore riusciva ad indispettire. «Posso assicurarlo a Vostra Altezza Reale, non può più nevicare, è materialmente impossibile!» «E perché mai?» «Non può, hanno preso le misure necessarie, hanno gettato sale per le strade!» L'ingenua dama non si accorse né della collera della principessa, né dell'ilarità delle altre persone, Invece di star zitta, infatti, aggiunse a mio beneficio, con un amabile sorriso, senza tenere in alcun conto i miei dinieghi a proposito dell'ammiraglio Julien de la Gravière: «D'altronde cosa importa? Il signore deve avere il piede marino. Buon sangue non mente!»